abituato ad indossare i tuoi vestiti per sentire su me il sudore e la terra. Oh, e attraversato a piedi tutti i tuoi quartieri, ed adesso lo so cosa vuol dire correre, e ne ho presi in faccia tanti dei tuoi schiaffi. Disegnare i tuoi silenzi, dunque adesso lo so cos'è la solitudine. Ho imbracciato uno per uno i tuoi fucili ed ho ucciso, mio Dio, com'è brutta la guerra. Ho scavato e tu nel tuo annuncio sole senza occhiali. Non ti merito più, non ti merito più. Ho provato anche a solcare le tue onde, ho cambiato colore a costo di annegare, ma sei quel mare il giusto prezzo del tuo amore. Indietro, rimediare una vita intera, ma forse sbaglierei ancora, magari alla stessa maniera. E non serve rimestare, scoperchiare tutti i vasi, quel che ora c'è non